Kafka era più boemo che tedesco, era soprattutto, e mi preme dirlo con grande veemenza, ebreo, a dispetto degli idioti e non me ne scuso, che tuttora, diciamo, con croci pseudo-celtiche, senza sapere nulla della cultura celtica, senza sapere nulla del razzismo, perché neanche De Gobineau o altri sanno chi siano, degli imbecilli, insultano la cultura ebraica e, ecco, questo tengo, mi scuso per la veemenza, ma credo che talora, la cosa, sia necessaria. Chi è nazista oggi è un idiota. Non me ne assumo. Sì, però, Marx, la prima volta, nella storia, la tragedia, la seconda una farsa grottesca. Ecco, e di questo mi assumo pienamente la responsabilità, anche perché ho avuto molto a che fare con codesti signori. E dicevo, la condizione di letteratura minoritaria di Kafka, boemo ebreo tedesco, a Praga, è particolarissima, come è particolarissima la condizione di Maggi e di altri, che fra l'altro, diciamo, nato anche lui da famiglia mistilingue, bilingue, e con origini varie, diciamo, si è trovato nella contaminazione e in chi questa contaminazione non accetta, no? Questo è assolutamente il richiamo a Kafka. In più è il richiamo evidentemente all'emblema della simbolizzazione. Questo credo sia abbastanza chiaro, ed è ossimorico rispetto a giornalista di Bolzano. Chiaro che è una contradictio in adiecto questa. Ora abbiamo visto un'altra figura oltre a quella di Kafka, e soprattutto un'altra incontreremo ora, che è quella di Milena. Ora sanno, credo, che Kafka ebbe varie avventure, diciamo, sentimentali, non prettamente erotiche, anzi molto spesso a livello platonico, a livello di sublimazione, si direbbe freudianamente. Milena è stata una delle esperienze cruciali nell'esistenza di Franz Kafka, no? E quindi, diciamo, Milena anche qui ha un ruolo particolare. Dicevo, ci sono poi altre presenze che in qualche modo costellano il libro, ma una in particolare è quella del comandante, del capitano Achab, o Ahab come è stato letto, che come sanno è l'antagonista di Moby Dick nel romanzo omonimo, nel capolavoro omonimo di Herman Melville, no? Melville non è solo Moby Dick, lo dico, è un invito a leggere tutto Melville, che è uno scrittore immenso, come probabilmente, insomma, nell'Ottocento americano non ci sono uguali, se non naturalmente Edgar Allan Poe, no? Questo è assolutamente chiaro, sia come scrittore, sia come poeta, sia come pensatore in senso ampio. Dicevo, il protagonista, appunto, diadico, quindi dialettico anche, nel senso almeno ampio dell'espressione, Franz Kafka, giornalista di Bolzano, è il protagonista e ci sono vari antagonisti, vari oppositori che sono assolutamente caratterizzati, sono volendo, ma volendo, riconoscibili, qui dipende anche dalla frequentazione che si è avuta di un certo mondo giornalistico, io dico la verità. Molti di questi personaggi sono identificabili da chi vi parla, molti altri no, perché si rifanno a un'epoca in cui diciamo non potevo avere frequentazione di ciò, e questo vale anche per altri presenti, no? Quindi, ecco, naturalmente si tratta di un libro che ha appunto anche dei referenti reali, però i referenti reali sono anche tranquillamente bypassabili, cioè è una certa temperie, un certo milieu giornalistico da cui si può tranquillamente prescindere. Un'ultima parola sempre riguardo a certe diciamo esternazioni, qui non vi leggo la lettera perché la lettera salvo appunto l'affermazione che mi ha chiesto di accentuare attiene a una sfera, diciamo, che è quella della privacy, no? Però c'è da dire qualcosa, ecco, il libro non è assolutamente un libro pornografico, è un libro di forte erotismo. Personalmente non ho frequentazioni né letterarie né d'altro tipo della pornografia, l'unica che mi sia rimasta, perché dovevo farlo per motivi di studio, rimane Les 120 Journées de Sodome, le 120 giornate di Sodoma del Marchese de Sade, con un bellissimo saggio di Roland Barthes, che è il fondatore dello strutturalismo, fondatore no, ma il diciamo l'attuatore più efficace dello strutturalismo, dell'interpretazione strutturalistica della letteratura, però vi assicuro che la lettura anche nell'originale appunto del libro di De Sade, che in genere invece è contenuto anche nell'erotismo, questo libro invece è lo scatenamento proprio pornografico, anche nel senso letterale. Loro sanno che dal greco pornografia vuol dire parlare di prostitute, no? Ora, qual è il carattere che peraltro anche Barthes accentua? È la ripetitività. La ripetitività, io non ho altri termini di paragone, ma questo romanzo, che è un roman fleuve, no? È un romanzo fiume di De Sade, ha questa caratteristica, cioè c'è la ripetitività degli atti sessuali, non solo dell'erotismo, con diciamo, descrizioni particolarmente accanite e morbose. Nulla di tutto questo nel libro di Maggi, lo assicuro.